Il leone innamorato, da Favole di Jean de La Fontaine, tradotto da Emilio De Marchi, registrato per LibriVox.org da Paolo Fedi, agosto 2007, Roma. Alla signora di Sévigné. Sévigné, tu che alle grazie d'ogni grazia sei modello, tu che in cor ti vanti rigida quanto splende il viso bello, deh, concedimi attenzione per il tempo d'una favola, nella quale mostrerò come amor vinse il leone. Io per pratica già so che a parlar d'amor a te non si va senza pericolo. Dal provare Dio ti salvi quanto amore sia terribile e indomabile padrone. Ma l'amor messo in canzone che si umilia oggi al tuo piè più terribile non è. In quel tempo che le bestie ragionavan più d'adesso, i leoni pretendevano con noi stringer società. Non ha forse, si dicevano, non ha forse il nostro sesso intelletto e forze d'anima come l'uomo, e una criniera per di più che l'uomo non ha? Un mattin di primavera un leone in una bella pastorella s'incontrò, tanto bella che al pastore per sposa dimandò. Dico il ver che il pover'uomo si aspettava forse un genero più modesto e galantuomo, ma poteva dir di no? Ei temeva che la bestia non andasse sulle furie, o che, smessa la modestia, non facesse uno sproposito la fanciulla, a cui non era, come avvien, punto antipatico un amante ardito e forte con tanto di criniera. Per venir dunque alle corte, disse il padre, anima mia, la fanciulla è così timida che temer forse potria delle dure tue carezze, dei tuoi baci troppo ardenti. Fatti prima rader l'unghia e limare un poco i denti. Per non perder la dolcezza d'un amor che cieco irrende, l'animale innamorato al consiglio acconsentì. Ma un leone disarmato è un castello che si arrende. Quattro cani ed un bastone ammazzarono il leone. Sempre amor se fuoco prende, tu vedrai finir così. Fine della favola Il leone innamorato. Questa registrazione è di dominio pubblico.